quando scintilla, poi me la fantasia non si piega a comando, o a prece umile. E capricciosa assai la poesia, a guida dell'amore. Irriti figura!